669 budino di mandorle tostate. Latte decilitri 8 pari a grammi 800. Zucchero grammi 100. Savoiardi grammi 60. Mandorle dolci grammi 60. Uova numero 3. Prima preparate le mandorle, cioè sbucciatele nell'acqua calda e abbrustolitele al fuoco sopra una lastra di pietra o di ferro. Poscia, pestatele riducendole quasi impalpabili e messo il composto al fuoco senza le uova, aggiungeteci le mandorle e dopo poca cottura passatelo dallo staccio. Ora uniteci le uova frullate e assodatelo a bagnomaria con un velo di zucchero fuso in fondo allo stampo. Non occorre nessun odore. La tostatura delle mandorle farà prendere a questo budino il color cenerino e gli darà un sapore così grato da meritarsi il plauso degli uomini e più quello delle donne di gusto delicato. Tanto questo che il budino di cioccolata si possono mettere in gelo prima di servirli, come pure per dar loro più bella apparenza, si possono coprire con una crema fiorita di confetti a colori oppure con panna montata.